mia, pianeti che cadono giù, stelle che non brillano più. E noi se vuoi al riparo in qualche cantina, vicini sul letto di fortuna, mentre passa su noi il 2000. E poi alla larga dai tristi e dai santoni, lontani da un mondo che va in frantumi, noi non ci perderemo mai. Compagnia, vecchia mia, siamo buona poesia, siamo il centro di una vita che rotola via, che sarà, chi saremo, chissà. Vanno via di chissà che diavoleri. E noi se vuoi, razza di chi poi si innamora, anche sopra una polveriera, via dalla gente che dispera.